puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più che quel che tu vuoi, che quel che tu cerchi. Non andare via, non andare via, non andare via. Non andare via. Per te inventerò le parole pazze che tu capirai, e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti vide mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando c'è sera, se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno un confine. Non andare via, non andare via, non andare via. Non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai, e ti sentirò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.